43 anni, è stato crivellato ieri sera da una decina di colpi alla testa e al corpo da due sicari che lo hanno affiancato su un ciclomotore. Tomasino era in auto con il figlio di 13 anni che è rimasto illeso. Oggi pomeriggio a Castellammare di Stabia, consiglio comunale in seduta straordinaria. E questa mattina è scattato un blitz nel Casertano, arrestati 12 affiliati al clan dei Casalesi, sono accusati di aver truccato con violenza e minaccia gare pubbliche d'appalto per la costruzione di un consorzio per la raccolta dei rifiuti in alcuni comuni della provincia. Tra gli arrestati l'imprenditore Sergio Orsi, il cui fratello Michele venne ucciso in un agguato camorristico il 1 giugno 2008. Via libera da oggi e per altri 6 mesi intanto al dispiegamento dei militari nelle città, con alcuni piccoli cambiamenti, spiega però il ministro della difesa Ignazio La Russa. A Milano i soldati aumenteranno dagli attuali 369 a 434, alla Campania saranno assegnati 429 uomini rispetto ai 179 iniziali. Mentre crolla il mercato dell'auto negli Stati Uniti, Ford ha visto un calo del 40%, General Motors del 49% e Chrysler del 54,8%. Barack Obama presenterà oggi le nuove misure per il salvataggio del sistema finanziario. Imporrà tra l'altro un tetto di $500,000 all'anno per i compensi dei manager e fisserà limiti ai loro bonus. Ma quello che si profila è anche uno scontro con l'Europa. Hot dog contro baguette. La crisi accende tentazioni protezioniste da una parte e dall'altra dell'oceano. E anche se non è ancora una guerra, già si sentono rullare i tamburi. L'Unione Europea è pronta a ricorrere alla WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, contro la clausola Buy American contenuta nel piano di aiuti statunitense in discussione al Senato, che vincola l'erogazione degli aiuti all'utilizzo di prodotti americani. Sarebbe un precedente preoccupante, ha detto l'ambasciatore a Washington dell'Unione Europea, mentre il cancelliere tedesco Merkel invita a evitare il protezionismo. Barack Obama ha tentato di smorzare i toni in un'intervista in cui ha dichiarato che non possiamo dare un messaggio di protezionismo. Tutto questo mentre da questa parte dell'oceano anche il presidente francese Sarkozy sta pensando di vincolare gli aiuti al settore auto all'uso di componentistica nazionale. Non è chiaro quanto questa mossa sia stata concordata o meno con Bruxelles, che ora si trova ad affrontare non solo un fronte esterno, ma anche uno interno. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Panasonic intanto ha annunciato il taglio di 15.000 posti di lavoro a livello complessivo e la chiusura di 27 impianti per contrastare gli effetti della crisi. Il costruttore automobilistico giapponese Mitsubishi Motors, per tagliare le perdite, invece ha annunciato questa mattina che abbandonerà tutti i rally. Attilio Bolzoni del quotidiano La Repubblica, il vincitore 2008 del premio è giornalismo fondato da Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca e dall'imprenditore Giancarlo Aneri. Il premio a Bolzoni viene riconosciuto per la professionalità del miglior cronista del Sud, che ha saputo dare le migliori informazioni sulla mafia e sulla camorra, è la spiegazione di Giorgio Bocca. È tutto per questo GR24, prossimo appuntamento alle 10. Allora, alla prossima lezione. Riguardiamo subito gli appunti a casa tua. Sì, certo. Andiamo subito però, perché dobbiamo prendere 2 linee della metro, poi la 51 per 12 fermate. Ciao, e fare un paio di chilometri a piedi. Quando c'è da cogliere l'attimo, non lasciartelo sfuggire. Acchiappa subito Mini Cooper D con 00 Mini. Zero anticipo, zero maxi rata finale, 3 anni di assicurazione furto, incendio e manutenzione a €3.900 l'anno. TAM veicolo 4,49 tag variabile, un'offerta Mini Financial Services valida fino al 31 marzo 2009. Dichiarazioni fiscali, bilanci e contabilità arrivano sul tuo studio come un macigno? No problem! Dal Sole 24 Ore arriva Sistema Via Libera. Sistema Via Libera, il software per i professionisti studiato dagli esperti del Sole 24 Ore. Modulare e integrato per la compilazione delle dichiarazioni fiscali, la redazione del bilancio e la gestione della contabilità. Un solo prodotto, tutte le soluzioni. Con Sistema Via Libera puoi acquistare e attivare soltanto i moduli più utili per il tuo lavoro. www.vialibera.ilsole24ore.com. Salve, sono l'antropologo Erminio Balladori. Sentite questo tambureggiare sulla tastiera? È la Tribulinear che si parla sul sito e scopre di poter risparmiare fino al 40% sull'RC Auto. E oggi nuova scoperta per i nuovi assicurati senza sinistri da 5 anni. Sconto benvenuto del 10%. Per un preventivo gratuito vai su linear.it oppure telefona all'800 112233. Linear, assicurazioni in linea con te. Sconto benvenuto non cumulabile con altre agevolazioni o sconti. Scade il 31 marzo 2009. Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Purtroppo dobbiamo tornare a parlare del caso di Eluana Englaro. Leggo da un articolo di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto, un prelato, un vescovo della Chiesa Cattolica e un teologo che non è sospettabile di integralismi e di fanatismi, non certo un prete conservatore. Leggo dal suo articolo sul Messaggero di oggi: per operare lo strappo si è scelta la notte, quasi a coprire del buio l'atto che si compiva. Si è cercato il pudore rispetto a un gesto che non può non suscitare immenso clamore. Ed ecco, nella notte in cui un'autoambulanza è andata a prendere Luana per portarla in una clinica, La Quiete, a Udine, dove morirà per una decisione legale, ecco quello che è successo. Luana, svegliati, ti vogliono uccidere! Ecco, questo è quello che è successo, comprensibilmente, credo, quella notte. C'è molta gente che non ci sta, che non è d'accordo, che nel profondo della propria anima, del proprio cuore, con molta buona fede, pensa che quello che si sta compiendo è un atto di aberrazione, un atto contrario ai principi di umanità. Naturalmente, a partire dal padre di Eluana, c'è molta gente che la pensa altrimenti. Il nostro problema è cercare di non contribuire a una rissa, ma andare al dunque, all'essenza della questione, e cercare di crescere civilmente accanto, parallelamente a questo atto di dolore che si recita davanti a noi. Per esempio sull'Unità, Luigi Manconi, che pure è una persona che io stimo, una persona capace, che abbiamo avuto ospite proprio per parlare di questo caso qualche giorno fa, mi pare che la metta in modo un po', come si può dire, manicheo, insomma, no? Dice: le figure dei protagonisti di questo caso emergono nitide adesso che siamo all'epilogo, dice Manconi. Da una parte sgangherate manifestazioni di fanatismo, quello di chi grida assassini verso l'ambulanza che porta via Eluana e quello di chi, qualche prelato e molti politici, definisce un omicidio la pietosa scelta dei suoi familiari. Dall'altra il volto nobilissimo nella sua scavata essenzialità di Beppino Englaro, il padre di Eluana, che ha saputo fare del solo sentimento che lo muove, l'amore per la figlia, una testimonianza civile e morale. C'è un invito al silenzio con cui dobbiamo fare i conti, un invito al silenzio che viene da molte voci, da molti osservatori. Io lo osserverei volentieri il silenzio, rispetterei volentieri la privacy. Purtroppo, bisogna dire la verità, la privacy era rispettata nella clinica Beato Talamone di Lecco, dove due persone che sono rimaste praticamente anonime, suor Albina e suor Rosangela, sono state tra coloro che per tanti, tanti anni, per 15 anni, hanno semplicemente curato, senza farsene un vanto, senza proclamarlo con orgoglio, curato questo corpo vivente che respira, che ha un ciclo di sonno e di veglia e che non ha la coscienza vigile, ha questa profonda, gravissima, terribile disabilità che ci spaventa tutti, ci fa pensare a un morto vivente. Infatti il medico che l'ha portata a Udine ha detto: è morta 15 anni fa. Ma questo è evidente che non è vero, è una consolazione che ci vogliamo dare nel momento in cui le togliamo il cibo e l'acqua. È evidente che non è morta 15 anni fa. Una persona è morta quando è morta, non è morta quando è viva, non è morta quando è nello stato di Eluana Englaro. E quindi questo silenzio è difficile da rispettare. Bruno Forte, il vescovo che citavo prima, si è cercato il pudore, il buio, il silenzio, una specie di anticipazione di morte, dico io, per accompagnare questa morte voluta, questa morte artificiale, questa morte procurata, si è cercato il pudore rispetto a un gesto che non può non suscitare immenso clamore. I dati di borsa con Deborah Rosciani. Apertura appena positiva questa mattina per le borse europee che tentano di beneficiare del discreto rialzo messo a segno ieri sera da Wall Street e anche questa mattina dai mercati asiatici. Un mercato americano ieri sera che è balzato nonostante i dati sulle vendite di auto che hanno neutralizzato le buone indicazioni arrivate invece dalle vendite di nuove case. Per il mercato dell'auto è crisi totale, paralisi totale in questo momento. Spostiamoci però a Piazza Affari, dove l'S&P MIB, dopo un avvio positivo, adesso cede già meno 0,05% in questo momento per il principale paniere di Piazza Affari. Acquisti stamattina su Fiat che balza del 3% a 4,16€, Mondadori più 1,69€, Italcementi più 1,59€, A2A più 1,43€, Parmalat più 1,39% per i titoli con i rialzi più decisi, mentre sono in calo Fastweb meno 1,81€, Prismian meno 1,13€, abbiamo un ribasso di circa un punto anche per Luxottica, Ubibanca e Fondiaria. Oggi occhi puntati anche sulle elettronica in generale dopo la notizia di Panasonic che ha annunciato il taglio di 15.000 posti di lavoro. Euro su dollaro stamattina a 1,29,94. È tutto, la linea torna Giuliano Ferrara. Maria Grazia Colombo era lì, avete sentito appena adesso le grida, avete sentito il senso sonoro che è anche un vedere in qualche modo di ciò che è accaduto mentre l'ambulanza prelevava Eluana Englaro per portarla nella clinica La Quiete dove morirà di fame e di sete. C'era Maria Grazia Colombo. Maria Grazia Colombo dovrebbe essere al telefono con noi, sì. È presidente nazionale dei genitori delle scuole cattoliche, quindi è una militante cattolica e pensa che Eluana avrebbe dovuto rimanere assistita da queste suore in una casa di carità e non portata alla Quiete per essere soppressa. Perché però, io le devo fare questa obiezione, signora Colombo, sì. Perché lei, con quale animo, voglio dire, è andata lì ad affermare questo suo sentimento, che naturalmente io presumo essere in totale buona fede, anzi un sentimento che promana molto probabilmente dalla fede cristiana, perché è andata a gridarlo, a esprimerlo con quella intensità, con quella forza, violando la privacy di un padre che ha chiesto ai tribunali di poter fare una cosa che secondo lui era la realizzazione della libertà piena di sua figlia. Dopo 17 anni in quello stato riesce attraverso una sentenza di tribunale a far sopprimere sua figlia togliendole l'alimentazione e l'idratazione perché pensa che questa fosse la libertà di sua figlia, si realizzi in questo la libertà, una liberazione di sua figlia da qualcosa che sua figlia non voleva e gran parte degli italiani che hanno appunto paura di questa condizione di morte vivente e gran parte degli italiani pensano che questo sia giusto. Lei perché è andata lì con forza e adesso ci andrà l'associazione Giovanni XXIII da Rimini a Udine eccetera. Questo movimento si scontra con questo fatto, la libertà di lei di decidere per sé, nessuno lo impone, è un padre e un tutore legale che dicono lei voleva così. Lei a questa obiezione cosa risponde? Allora, prima di tutto la ringrazio tantissimo di questa possibilità, perché devo dire che... Cosa risponde signora Colombo? Ecco, allora, la libertà di Eluana, la libertà di suo padre. Allora, prima di tutto io non ero lì a gridare, questo lo dico perché non è nella mia posizione umana. Va bene, comunque era insieme a coloro che si oppongono in modo visibile e chiaro. Ho fatto una considerazione, mi sono mossa per questo. Secondo me il dolore è personale, per cui c'è un rispetto grandissimo per Englaro, per Eluana, eccetera. il male, e io lo considero male, far morire una persona di fame e di sete. Il male? Diciamo il cose. Dolore personale? Il male? Il male non può essere un fatto privato. Come c'è un bene comune che tanto sbandieriamo, c'è anche un male comune. Bene, questa è una risposta molto, diciamo, mi sembra piuttosto chiara. Il dolore è un fatto personale, ma il male è un fatto sociale, riguarda la comunità, esatto, riguarda tutti. Perfetto. Cosa risponde a questa obiezione Maria Laura Catinari, che invece è vicepresidente dell'Associazione Libera Uscita per la legalizzazione del testamento biologico, ed è, diciamo, una persona che crede profondamente nel... Buongiorno. Sì. Nel diritto di morire, diciamo. Bene, perché io non vi sento affatto. Se non ci sente, questo è un grave handicap. Sì, vi sento pochissimo. Mm-hmm. Comunque, la domanda l'ho sentita, cosa rispondo... Bene. All'osservazione della signora Colombo che definisce male quello che sta succedendo. Ecco, il problema è proprio in questa definizione, male, perché quello che sta succedendo per noi non è affatto male, per noi la tragedia è quello che è successo nel 1992 con l'incidente di Eluana, quello che è successo dopo in questi 17 anni. Ma quello che sta succedendo oggi è semplicemente il rispetto dell'autodeterminazione terapeutica, che è un diritto soggettivo, perfetto, costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della Costituzione. E Luana non sta morendo di fame e di sete, e Luana morirà perché verranno interrotte delle terapie che tali sono considerate dalla FESIN, la Federazione delle Società Italiane di Nutrizione. Il loro presidente in commissione sanità durante le audizioni sul testamento biologico ha chiarito che queste sono delle terapie anche molto sofisticate, non esistevano nel mondo prima del 1967. Smettiamola di dire che Luana muore per mancanza di cibo e di acqua. È un inganno. Mi scusi, signora Catinari, non è un po' formalistico quello che lei sta dicendo? Io naturalmente, lei ha tutto il diritto di dirlo, ma se Luana invece che alimentata con un sondino nasogastrico fosse imboccata, per esempio come succede a tanti pazienti di Alzheimer, a tanti pazienti che non sono autonomi, esistono le persone non autonome, che hanno un grado di vigilanza maggiore di Luana, che non sono, diciamo, in uno stato vegetativo persistente, però tuttavia non sono autonomi, devono essere alimentati con acqua e con cibo e con proteine. Aspetti, se Luana fosse semplicemente senza la tecnologia cosiddetta di un sondino nasogastrico, che poi insomma è un tubicino, vabbè, ma comunque, sappiamo, se no, mi consente. In quel caso lei cambierebbe idea? No. No. Un momento, sappiamo benissimo no, mi risponda, a Eluana, scusi. A Eluana vengono anche forniti farmaci nelle condizioni in cui è, ma se lei mi ponesse la domanda, se noi potessimo mantenere in vita Eluana senza farmaci e semplicemente imboccandola con pane, acqua, non si tratterebbe di un intervento terapeutico, non si tratterebbe quindi di autodeterminazione terapeutica, e quindi noi non potremmo dire nulla. Bene. Ma qua la situazione è totalmente diversa, è una paziente che è stata sottoposta a trattamenti sanitari non voluti, non solo l'idratazione e l'alimentazione, ma è risaputo che queste includono dei farmaci. Sì, signora Catinari, per parlare di un'altra cosa, perché per esempio questo articolo di Bruno Forte, che ho citato prima, di questo vescovo progressista della Chiesa Cattolica, dice ora Eluana è in una... Sentivo bene cosa diceva su Forte? Forte, il vescovo Forte, sì, ha scritto un articolo, secondo me molto significativo, in cui comincia dicendo... Nel buio, e si vorrebbe anche nel silenzio, si compie un gesto che invece suscita immenso clamore, secondo me ha ragione. Eluana è in una stanzetta, dice, per 3 giorni ancora sarà nutrita, dice il protocollo, poi non lo sarà più né acqua né alimenti, morirà così, in silenzio, con un'agonia che durerà giorni. Soffrirà, si chiede il vescovo, Chi dice di no deve spiegarci perché il protocollo preveda la continua somministrazione di tranquillanti, di analgesici. Conferma evidente che il dolore di Eluana non può essere semplicemente escluso, che il suo organismo è vivo e vitale. La sentenza, mi permetto di dire, è molto semplice. Qui noi abbiamo parlato di autodeterminazione della persona. E quando la signora Maria rifiutò l'amputazione della gamba, a Milano, vero, penso il caso è noto, la signora sapeva che sarebbe morta. Quindi quando si parla di autodeterminazione della persona, si parla di un diritto che, e quindi se anche Luana, per ipotesi, no, noi potessimo pensare che ci sarà della sofferenza, è sicuro la signora Maria non avrà sofferto, ed è giusto quindi e i medici che l'assistano, per un principio di precauzione, vadano a mettere in atto quelle terapie palliative che sono opportune al caso. Va bene, ho capito. Giovanni da Bologna. Giovanni? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io volevo dire che sono d'accordo col direttore, con lei, da tanto tempo seguo le sue battaglie. Questa questione l'ho seguita molto da un punto di vista giuridico, visto che insomma sono mi occupo di cose giuridiche, diciamo, la mia professione, e sì. Vorrei sottolineare questo. Il professor Francesco Gazzoni, ordinario alla Sapienza di Roma di diritto civile, ateo dichiarato da sempre, ha scritto che qui è stato fatto strame del diritto, perché fin dall'inizio si sono introdotte delle categorie che non c'entrano nulla con la questione di specie, cioè si è parlato di testamento biologico, non c'è nessun testamento biologico, si è parlato di rispetto della volontà. Sì, sono altre obiezioni formali, diciamo, alle sentenze, le quali però ci sono pur state, questo dobbiamo naturalmente ammetterlo e dobbiamo tenerne conto, perché le sentenze ci sono sì, state. È vero. Però, scusi, questo qui era un decreto, non dobbiamo confonderlo, è un decreto che è modificabile in qualsiasi momento, non ha nessun carattere di, cioè non fa stato come la sentenza, per cui poteva essere benissimo modificato qualora le condizioni della paziente fossero modificate, tant'è che è stato detto che Luana ha anche deglutito, per cui questa questione poteva rimettere in gioco tutta questa architrave giuridica che il papà di Eluana ha messo in piedi. Va bene, questo è molto chiaro, grazie. Massimo da Verona, un altro punto di vista. Sì, buongiorno. Senta, io volevo partire da un punto di vista, che è questo. Io volevo partire dal punto di vista del padre di Eluana, mi spiego. Io non giudico né a favore o contro a quello che sta facendo, io dico solo una cosa, che deve avere un profondo rispetto per quello che sta facendo, perché è sempre un padre e con immenso dolore sta decretando la fine della figlia, punto primo. Punto secondo, scusi, posso farle una domanda? Secondo me il rispettare il padre significa certamente, come dire, circondarlo comunque, al di là di tutte le idee che si esprimono, anche del grido di dolore, di avversione che si esprime al gesto che è stato compiuto su sua istanza, però al di là di questo lo si circonda di affetto, dopodiché bisogna rispettarlo. Allora, questo è un padre che scrive dei libri sulla vicenda di sua figlia, vuole che questi libri vengano letti, commentati, giudicati, è un padre che si rivolge alle corti per tanti anni, vuole un diritto pubblico, sia pure personale, legato al suo caso, ma un diritto pubblico, cioè porta nell'agorà, dentro la comunità, il problema del destino di una persona umana vivente alla quale bisogna sottrarre cibo ed acqua. Quindi compie un gesto, certamente per amore, ma un gesto infinitamente pubblico, destinato, come dice il Vescovo Forte, ad immenso clamore. Allora, come faccio a rispettarlo quando lui va da Fabio Fazio, quando va in televisione, quando parla nelle interviste, nelle fotografie, con le foto di sua figlia? Ci mette tutta questa accorata passione pubblica e io poi lo rispetto ignorando le sue idee? non criticandole, non mettendole in discussione. No, questo non è possibile, questa è indifferenza morale, non è silenzio religioso, non è preghiera, non è rispetto della privacy. Beppino Englaro è l'araldo di una posizione pubblica sul diritto di morire, sulla libertà e propria disponibilità della vita e della morte, che deve essere affrontata proprio per rispettare lui, non trova? No, io non trovo, io penso che ognuno di noi vive le proprie situazioni nella vita in modo diverso, con situazioni diverse, con situazioni diverse. Io ripeto, siccome l'esperienza di vita, anche se sono giovane, ho visto che tante cose, lei mi può parlare di una cosa, averla vissuta in un modo, io posso averla vissuta in un altro, no? Quindi alla fine, ripeto, non voglio neanche entrare nel merito di questa cosa. Dico solo questo, che è chiaro che secondo me, io sono d'accordo che ci vorrebbe una regolamentazione su questa cosa, per carità, però alla fine, ripeto, parto da questo concetto che bisogna avere un profondo rispetto, perché alla fine... Certo, ma questo siamo assolutamente d'accordo. Bisogna vedere che cos'è il rispetto, se è un rispetto fatto di silenzio o di partecipazione pubblica a un dramma che è diventato pubblico. La ringrazio. Paolo Tanduo, anche lui era lì quella notte. È il responsabile giovani del gruppo del Movimento per la Vita Ambrosiano. Tanduo. Buongiorno. La libertà di Eluana è il vostro punto dolente, il nostro punto dolente. Io non è che faccio finta di stare sopra le parti. Io, diciamo, idealmente ero lì quella notte. Ma la libertà di Eluana e di suo padre, la loro privacy. Allora, secondo me ci sono alcuni punti a sottolineare. Primo, che la libertà è sempre accompagnata dalla parola responsabilità e quindi bisogna tenerne conto. Bisogna dare la libertà al medico di poter curare una persona, nel rispetto ovviamente, e di nutrirla. Bisogna dare la libertà alle suore di poter amare questa ragazza. Tutte queste libertà non si citano mai, perché bisogna negare la possibilità delle persone che vogliono bene a Eluana di poterla curare e accudire. Questa quindi è la sua risposta sul tema e sull'obiezione della libertà e della privacy di Eluana e della sua famiglia. Cioè che ci sono le libertà comunitarie e non le libertà le libertà, diciamo, negative, le libertà dall'intervento degli altri, ma la libertà di partecipare a una sorta di bene comune che nel corpo di Eluana si esprime. E questa è la sua visione. Certo. Bene, e cosa farete? Continuerete questa battaglia? Andrete a Udine? Ho visto che appunto l'Associazione Giovanni XXIII ha indetto un pellegrinaggio davanti a questa casa di cura con questo nome fatale. Noi stiamo valutando la possibilità di andare a Udine e ripetere quello che avevamo fatto già anche a Lecco, cioè il rosario per la vita, perché crediamo fortemente nel fatto che Eluana è una persona viva, e noi vogliamo manifestare la nostra solidarietà e pregare anche perché questa cosa non avvenga, una tragedia immane che non può essere consentita in uno stato civile. La nutrizione e l'idratazione non sono terapie. La Eluana ha addirittura ricominciato il ciclo mestruale, cose straordinarie che vengono sottaciute, e quindi noi crediamo fortemente nel valore della vita e difenderemo pacificamente questo valore. Va bene, grazie Tanduo. La pubblicità, tra pochissimo riprendiamo. Grazie. Prendete i bottoni di 15 camicie, moltiplicate per 50 paia di scarpe e poi per 5 gemelli. Avrete il numero di classici nel nuovo millennio, 150.000. Un club esclusivo di cui potrete far parte grazie a un eccezionale finanziamento. Classe C Station Wagon, ha tutti i numeri per piacervi. Scoprite l'unicità del suo Agility Control di serie. Iniziativa su vetture disponibili e ordinate entro il 28 febbraio, salvo approvazione di Mercedes-Benz Financial Services Italia. Informazioni su mercedesbenz.it all'877-441. Gestione del cliente, controllo dei costi, efficienza, organizzazione. Il tuo studio professionale affronta anche questi temi. Il Sole 24 Ore presenta Professionista 24, lo strumento indispensabile per migliorare la qualità delle prestazioni di commercialisti, avvocati, consulenti e la produttività dello studio in un mercato sempre più competitivo. Fai crescere il tuo studio con Professionista 24. In edicola, la seconda uscita. Buongiorno, sono Marco, come posso aiutarla? Sì, vorrei ADSL e telefono senza limiti gratis per 4 mesi. 4 mesi gratis? Mi dica un po' di questa offerta, che anch'io volevo cambiare gestore. Tele2, perché pagare di più? Solo con Tele2 hai locali e nazionali illimitate e ADSL 7 mega senza limiti, senza canone Telecom, a soli 38,90 € al mese, gratis per 4 mesi, solo fino al 12 febbraio. Chiama gratis il 1922. Info e copertura su tele2.it. I fast di Dialogo, l'assicurazione che rivoluziona il mercato dell'RC auto con prezzi sbalorditivi e ti fa risparmiare fino al 50%. Chiama l'833-1166, 833-1166 o vai su dialogo.it. Da 4 ruote 1107. Fuori da questa camera da letto. Voglio fare ordine nella mia vita. Mi hai rotto le scatole! Ma amore, ma quale scatole? La donna porta tutto, la cassetta per vestiti. Oppure le flirt. O le conosco un coperchio. Sempre più italiani sono stufi del casino. All'IKEA trovi tutto per organizzare la camera da letto a prezzi da sogno. E dal 2 al 13 febbraio, dal lunedì al venerdì, due scatole Nostalgisk a solo 5,99 €, il 25% in meno. IKEA, qualità al miglior prezzo. Parliamo con l'elefante. 800 24 00 24, stiamo parlando con un tentativo, diciamo, laico di non generare una rissa sulla base dei soliti argomenti ripetuti tutti i giorni ormai da molti mesi del caso di Eluana Englaro. Enzo da Milano. Enzo. Buongiorno dottor Ferrara, la ringrazio per buongiorno, l'opportunità. Si figuri. Si figuri. Dunque volevo innanzitutto rispondere velocemente alla persona che era intervenuta prima circa la libertà, la signora che aveva parlato prima di me. Sì. E io dico che la mia libertà inizia dove finisce la libertà di un altro. Le priorità a questo punto vengono scelte, diciamo così, vengono regolamentate da una legge oppure da una sentenza, come in questo caso. Sì. E per cui io mi rimetto a quello che è la sentenza con la legge. Lei ha focalizzato la sua opinione sulla questione del diritto dei genitori di decidere, mi pare. In questo momento del diritto dei genitori di decidere e del testamento biologico eventualmente di cui si parla. Quindi diciamo della decisione di Eluana, se poi ecco, sulla questione, scusi, sulla questione dei genitori, il caso di Terry Schiavo, un caso analogo, non perfettamente identico, lì c'era una divisione nella famiglia, ecco, lo dico perché lì i genitori volevano che la ragazza, che era anche lei in un coma vegetativo persistente, aveva anche lei un ciclo di sonno e di veglia, si vedevano i suoi occhi aperti, si vedevano, diciamo, le sue reazioni minimali, perché non era completamente finita l'attività cerebrale. Insomma, in quel caso i genitori volevano che lei continuasse ad essere curata ed accudita, e invece il marito no, il marito voleva assolutamente che lei morisse. Poi si è rifatto una vita, si è sposato, ha fatto anche un accenno di vita politica, insomma l'umanità è fatta così, reagisce agli eventi in modi diversi. Noi dobbiamo sempre presupporre, anche quando Lauriana Fallaci mi diede un suo lungo articolo in cui attaccava fortemente il marito, io ebbi delle perplessità al foglio, perché dissi, ma mettiamo pure che il marito sia poco di buono, ma che diritto abbiamo noi di entrare dentro questa questione così personale, lui il marito. Però io dico, perché i genitori, i mariti e queste giovani donne? C'è qualcosa che non mi funziona. Io credo che il mio diritto di cittadinanza, che è un diritto laico, non religioso, non militante, non integrista, io non voglio applicare i miei pregiudizi. Tra l'altro io sono uno che non ha pregiudizi di tipo religioso, non ha il pregiudizio, il sublime pregiudizio della fede, non ho dogmi ai quali inchinarmi, non appartengo a una chiesa, non ho una fede come appartenenza, quindi per me le parole dei cardinali, del ministro della salute del Vaticano Barragan, di Monsignor Fisichella, presidente della Pontificia Accademia della Vita, quando parlano della soppressione di una vita, di un omicidio, di eutanasia, quando dicono che è un atto contro l'umanesimo, per me sono opinioni nella piazza, alla stregua di tante altre opinioni. Naturalmente su quelle opinioni c'è un deposito di autorevolezza particolare, grandi biblioteche, una grande storia. Insomma, è diverso dall'opinione di un passante, però sono opinioni. Tuttavia io credo che ci sia una verità oggettiva. Non so, lei dice i genitori, ma perché i genitori? È una relativizzazione del valore di un essere umano. Un essere umano adulto, come dire, il suo destino, la sua sorte, quando in ballo la questione della vita e dell'amore, della verità sul suo stato, è di tutti. Sì, ma vede, per questo si fanno le leggi. Esatto. Se no vivremo in un mondo privato, di affetti privati, in cui le leggi non servono, ognuno si regola come vuole. Tanto assolutamente, ma la legge c'è stata e la legge, oppure parliamo di sentenza fino a questo momento, visto che la cosa non è regolamentata ancora da una legge, e dico si è espressa. Io invece penso purtroppo che da quando si esprime la piazza, nel senso che prima la piazza si esprimeva su diversi argomenti politici, sociali, eccetera, eccetera. Anche questo è un argomento sicuramente sociale, ma io purtroppo penso che la piazza in questo momento sia composta più che altro da mestieranti della politica che strumentalizzano, che prendono la voce. Va bene. In questo io invece momento. D'accordo. No, è chiarissima la sua opinione. Io invece penso sempre, per citare ancora Bruno Forti, ha scritto veramente un bell'articolo sul Messaggero di oggi. Si vede che non è un articolo, è una specie di dichiarazione spontanea del prete, dell'uomo e del cittadino. Chi vincerà se Eluana morirà così? Dice Monsignor Forte, arcivescovo di Chieti. Chi vincerà? Non certo la dignità della persona umana, di qualunque persona umana, quale che sia la sua condizione fisica o mentale, economica o sociale, la nazionalità, il colore, la storia. La dignità di tante persone diversamente abili, con grandi e a volte altissimi gradi di disabilità, come di tanti pazienti in stato vegetativo, il valore della vita personale, di ogni vita personale, è qui fortemente messo in questione. E anzi perfino minacciato. Ecco il punto, e ne voglio parlare con Sergio De Muro, coordinatore della cellula Coscioni di Lecco, insomma un militare, l'organizzatore della fiaccolata in favore del fatto che Luana venisse portata via e sottoposta al protocollo a cui verrà sottoposta tra qualche ora. Se una sentenza può decidere di togliere acqua e cibo a qualcuno per farlo morire, stabilendo che questo è illegale, mi sembra che una voragine si apra davanti a noi. Un buco nero nella nostra convivenza civile. Sergio De Muro, voi avete marciato con le fiaccole per dire no, Eluana ha diritto di evadere dalla prigione della carità cristiana, no? Diciamo così. Le suore sono state brave, ma lei voleva un'altra cosa, voleva morire piuttosto che essere curata e accudita in questo modo, no? Voi avete sposato questa causa. E le obiezioni di queste persone razionali come Monsignor Forte, cosa ve ne fate? Ma sinceramente io, con tutto il rispetto per Monsignor Forte e per la delicatezza poco vicina a tanti altri interventi di un altro prelato sull'argomento, io opporrei semplicemente che dopo quella tragica, perché anch'io come padre, tutti noi pensiamo che quello che subirà Eluana è una cosa tragica, ma assolutamente rispettosa delle sue volontà. Cioè, io non credo, sta passando un messaggio un poco chiaro, un po' mistificatorio, anche da parte di persone che dovrebbero essere responsabili, parlamentari, quali l'avanzamento di una cultura della morte. No, quello che vorremmo mettere in chiaro, che a noi come associazione, a noi come individuo, a me come padre, non interessa che muoia Eluana. A me interessa che Eluana sia rispettata nella sua forte e chiara decisione di non accettare un tipo di vita che ha dovuto subire, io la chiamo una condanna a vita, quella che c'è stata, che ha dovuto subire per 17 anni assolutamente contro la sua volontà, e questa volontà è stata certificata da una sentenza di tribunale, sentenza che non riconosce ai genitori la decisione, ma semplicemente riconosce ai genitori la possibilità di mettere in atto le decisioni di sua figlia, per cui nessuno sta assassinando nessuno, semplicemente si sta dando lo spazio giusto, la risposta giusta a un dettato costituzionale, la legge delle leggi. Ecco, io sono, vorrei, guardi, ricordare, scusi, in questo stato, Muro, la Muro, legge delle leggi, sì, è la Costituzione. Muro, io sono d'accordo con lei, non si sta compiendo un omicidio. Io questo, anche nelle polemiche sull'aborto, ho sempre spiegato, è un fatto culturale, è un fatto quindi di diritto che riguarda la legge, cioè una morte che è conseguenza di una decisione legale. Si tratta non di un omicidio, ma di una condanna a morte, che è una cosa diversa. Neanche la condanna a morte eseguita nel Texas o in Cina è un omicidio, eh? È una condanna a morte, ma questo non so se semplifica le cose o invece le aggrava, tant'è vero che c'è voluta una lunga battaglia per imporre la moratoria per le condanne a morte legali contro coloro che sono stati giudicati responsabili di omicidio, efferato, eccetera, eccetera. Lì c'è la moratoria, mentre per altri tipi di condanne a morte, la vita non nata, le bambine in Asia, i bambini abortiti, centinaia di migliaia, milioni nel mondo, lì non c'è stata nessuna moratoria. E adesso si introduce in Italia, paese che fa scandalo, che fa clamore, ma diciamo in Olanda c'è l'eutanasia infantile addirittura ormai da parecchi anni. Allora, il punto qual è, De Muro? Il punto è questo. Lei, anche Barbara Spinelli, nel fondo di oggi sulla stampa, che pure è assolutamente contraria alle idee di coloro che sono andati lì davanti all'ambulanza, condanna in modo vivace, però dice certo, come dire, una morte che è effetto in qualche modo di una decisione pubblica e politica, dei problemi li pone, cioè il dubbio viene a chiunque. Io, ecco, questo dico, no, io non sono uno di quelli che si nasconde dietro al dubbio per non dire la propria opinione, oppure che teorizza e celebra il silenzio in una forma non tanto di tatto, ma in questo caso di opportunismo. Cioè, mettiamoci da una parte, reagiamo con una sorta di sublime, nobile tatto. Io non sono di quelli, però dico, il dubbio viene o non viene, a lei non viene personalmente, umanamente, il dubbio che... A me viene il dubbio di sbagliare, no, glielo dico sinceramente, non è un ritrovato retorico. Io ci penso, insomma, mi tormento, non sono direttamente, emotivamente, personalmente coinvolto, ma civilmente sì. Mi viene il dubbio di sbagliare, di pensare che in fondo, vabbè, ci sono tanti atti privati in cui un paziente a una fine viene lasciato andare, io li rispetto, non sto lì a dare la caccia, diciamo, a questa che può essere, per paradosso, perfino una forma di carità in certi casi. Quindi il dubbio io ce l'ho, vorrei sapere se ce l'avete anche voi un dubbio. Voi dite la sentenza Manconi, la Cassazione, la nobiltà di questo comportamento, ma qui si sta eseguendo una sentenza che dice che una persona che adesso respira ha un'attività cerebrale inferiore a quella di tutti gli altri, però insomma, ed è affidata a mani caritatevoli, ha un ciclo vitale suo. Una persona gravemente disabile deve essere soppressa per volontà, per decisione dello Stato e per volontà sua, magari della sua libertà, della libertà di suo padre. Ma il dubbio ce l'ha lei o no? Ma guardi, io i dubbi li ho, e credo che siano sempre una cosa sana avere dei dubbi. Però dopo aver valutato i dubbi, una decisione va presa, e in questo caso i miei dubbi, non ho paura a dirlo, non sono stati molti, visto che la mia linea, diciamo, la mia stella polare è la libertà, quella vera, E la libertà è proprio il rispetto della libertà degli altri, il rispetto della volontà degli altri. Le faccio un'altra domanda. Io credo sia giusto che le persone possano decidere con tutti gli aiuti da un punto di vista informativo, il più completi possibile, che possano decidere della loro vita. Bene, chiarissimo. L'obiezione alla libertà ci stiamo, diciamo, girando intorno dall'inizio della trasmissione. Io, come lei vede, come lei sa, la tengo molto in conto. Danilo da Roma. Pronto? Danilo? Danilo, mi sente? Sì. Ecco, dovrebbe dirmi la sua opinione. Ecco, io ho sentito tutta la trasmissione, per cui ci sono delle dichiarazioni, perlomeno questa che ha espresso il suo parere dall'ultimo ascoltatore, che assolutamente non condivido. Qui si parla anche di una decisione della persona, ossia io francamente avevo detto delle altre, ossia per me la magistratura assolutamente doveva devolvere al Parlamento la decisione finale, perché era un modo anche per sollecitare la politica a prendere delle decisioni che assolutamente la magistratura non è in grado di, non è sua competenza. Per me la magistratura deve decidere sulle sentenze. Lei ha lasciato in nota, per questo poi le hanno ritelefonato, una cosa che mi ha colpito, perché anch'io in un momento di disperazione anch'io l'ho scritta. Dice: meglio sarebbe farle un'iniezione letale a questo punto piuttosto che farla morire di... Decidere per me stesso, deciderei in questo senso. Va bene. È allucinante il discorso, scusi, di stamattina ho sentito sul telegiornale, lei ha detto che per 3 giorni verrà alimentata e poi verranno interrotte l'alimentazione. Invece il telegiornale ha detto che non è così, il protocollo prevede che questa alimentazione sia gradualmente diminuita, per cui la prolunga. Voglio dire, in questo caso stiamo alimentando, ossia non è una decisione per cui stacchi la spina. No, non c'è nessuna spina da staccare, è un altro tipo di decisione. Bene, ho capito. Grazie, le strade. Strade in diretta. Il traffico in prossimità delle grandi aree urbane, Roma e Milano in particolare, c'è ancora, non si sono ancora smaltite le code, ma attenzione perché a Roma questa mattina si aggiunge una voragine in via Tiburtina e chiusa la corsia centrale tra via delle Cave di Pietralata e via Ottoboni. Le deviazioni avvengono sulle corsie laterali, la chiusura crea però ripercussioni in via Fiorentini in direzione centro e in via di Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Ne risentono soprattutto tutti quei percorsi che portano proprio via Tiburtina, tra questi via Galla Placidia. C'è poi un incidente sulla tangenziale est della capitale tra lo svincolo della Moschea e via l'Etiopia in direzione San Giovanni. I riflessi si avvertono su via del Foro Italico. E attorno a Milano conseguenze di tamponamenti avvenuti in precedenza adesso risolti, ma il traffico per questo motivo rimane molto intenso sull'Autosole e sulle tangenziali. Poi all'interno dei cantieri si formano questi imbuti, come sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e la 12 Genova-Livorno verso il capoluogo Ligure e 2 chilometri di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e Campo Galliano verso Modena. Ancora chiusa per frane la 3 Salerno-Reggio Calabria tra Palerna e Cosenza Nord. Infine in città, a Napoli, per 2 cortei disagi, i cortei sono partiti rispettivamente da Piazza del Gesù e da Piazza Mancini. Sentiremo come va tra un'ora. Parliamo con l'elefante. 800 24 00 24, continuiamo a discutere di Eluana Englaro. Come avete visto, lo abbiamo fatto in un modo particolare, non abbiamo chiesto di dirci le loro idee a opinionisti, a leader, diciamo, a diverso titolo istituzionale, a persone implicate, legislatori, medici, preti. No, abbiamo cercato di parlare e stiamo cercando di parlare con militanti, con gente che fa parte della società civile e che nella società anima esperienze militanti e si batte per idee diverse, opposte, su questo caso terribile di Eluana Englaro, che però non è un caso singolo, isolato, solo individuale, è un caso, come si dice, che fa paradigma, che fa esempio, che fa testo. Bene, Io adesso sentirei un attimo la testimonianza di Riccio, il Mario Riccio, il medico che aveva, diciamo, risolto il caso Welby. E lui ci dice in modo responsabile, senza eufemismi, che cosa sta per succedere nella clinica La Quiete di Udine. Riccio. Semplicemente non verrà più applicata la sacca nutrizionale al sondino nasogastrico, che potrà rimanere tranquillamente in sede, poi nel giro di 15-20 giorni dovremo assistere alla disidratazione, alla morte di mano in grado. Assistenza particolare nessuna, assistenza di base, quella descritta anche molto accuratamente nella sentenza della Corte di Appello. Mantenimento di idratazione delle mucose, somministrazione di farmaci per prevenire alcuni effetti collaterali della disidratazione, e poi con la sentenza della Corte d'Appello raccomanda che venga eseguita, diciamo, la cura ordinaria dei pazienti. Visivamente ci si accorge, e da quando che sta cambiando l'evoluzione dello stato del paziente? Assolutamente no, nel senso che la mancanza di liquidi e sostanze nutrienti non modifica sostanzialmente niente del paziente. La disidratazione, nei casi come quelli di Eruana in grado, interviene su un corpo che ormai si è in un certo qual senso pietrificato dal punto di vista delle condizioni generali. Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, associazione italiana per il diritto ad una morte dignitosa. Uno dei vostri argomenti, signor Coveri, buongiorno, è che la medicina e la tecnologia oggi consentono di vivere artificialmente. E che in certi casi è preferibile una morte, appunto, che voi qualificate come dignitosa, a una vita artificiale non dignitosa. Però, se mi consente, io ho mandato in onda questo giudizio di Mario Riccio, perché niente è più artificiale della morte che verrà comminata ad Eluana Englaro. È artificiale, ci vogliono i medicinali, bisogna idratare le mucose, insomma bisogna sedare, bisogna evitare effetti collaterali, non si scappa quando si è nelle mani dei medici, quando si è in una casa di cura, tutto è artificiale, bisogna vedere se nel senso della cura o nel senso della desistenza dalle cure, nel senso della morte. Certamente, ma questo è proprio la disfunzione che sta esistendo in questo caso di Eluana Englaro e con gli altri 1000 casi che esistono in Italia in questo senso. Noi siamo naturalmente per una morte dignitosa e soprattutto per l'eutanasia, lottiamo per il testamento biologico e vogliamo che venga rispettata la volontà. Secondo lei è eutanasia quella a cui viene sottoposta adesso Eluana Englaro? Perché per esempio il Presidente della Repubblica lo ha negato. Questa non è eutanasia, perché Eluana è morta 17 anni fa, nel 1992. Non esiste più come donna, come corpo. Il fatto che stiamo... Non pensa di essere... Scusi. Non esiste più come corpo. No, Coveri, lei dice delle cose naturalmente che... No, perché state usando dei termini sbagliati. Sì, ma lei ha detto non esiste più come corpo. Insomma, ma cosa fa? La scioglie nell'acido dell'ideologia. Il corpo esiste, sta lì, no? Qui non si sta sopprimendo nulla. Cioè, c'è una parte, diciamo, dell'opinione... Troppa fretta, signor Coveri, troppa fretta. Ma non stiamo sopprimendo nessuno, qui il discorso è che stiamo mettendo in pratica le volontà di questa persona. E poi soprattutto una cosa, non stiamo parlando del rispetto della volontà di un paziente. Se io ho deciso una cosa, faccio un testamento biologico e decido che io non voglio avere delle cure disumane, che mi portino, cioè voi state cercando di portare avanti discorso di prolungare la sofferenza. È dall'inizio... queste sofferenze. Scusi, signor Coveri, è dall'inizio della trasmissione che io dico che la vera grande obiezione è quella della libertà della persona di autodeterminarsi. Quella è la grande obiezione. Benissimo, aspetti. E allora rispettiamo. Se io ho deciso, per esempio, che... Ci sono molte libertà di autodeterminazione alle quali noi rinunciamo perché c'è un mondo comune. Non ci sono tanti mondi quanti individui. C'è un mondo comune. Il mondo che risulta dalla violazione del principio non uccidere o del comandamento non uccidere è un mondo comune, non è il mondo di Eluana, del padre di Eluana, è il mondo loro e il mondo nostro, è il mondo di Udine, il mondo di Roma, il mondo della Cina, il mondo dell'America, il mondo dell'Europa, dell'Africa. Gli uomini, gli esseri umani condividono un mondo, è d'accordo su questo lei? No, io non sono d'accordo. No, non è d'accordo sul fatto che gli uomini condividono un mondo, gli uomini e le donne che vivono sulla Terra. Sì. nella natura umana. Ed è comune, no, questo mondo. Di mezzo, certo. Ecco, siamo, come comportarsi, le questioni etiche che riguardano la vita e la morte sono questioni che riguardano tutti, o sbaglio? No, anzi, proprio perché riguardano tutti voglio vedere perché non debbano rispettare una determinata opinione. Ora, io sono dell'avviso che se una persona, anche che ha una patologia gravissima, come può essere una sclerosi laterale amiotrofica, e decide di continuare a vivere e voler vivere, questa persona ha questo diritto di continuare a vivere. Ma se io ho una patologia gravissima, che non sto a dirla perché ce l'ho anch'io tra l'altro, allora io ho deciso di farla finita, ma perché non devono rispettare la mia opinione e non ho questo diritto, al contrario di quello che dovrà dare poi il testamento biologico, e che la gente mi debba prolungare la sofferenza? Qui non stiamo sopprimendo nessuno, stiamo aiutando qualcuno. Nei paesi dove esiste l'eutanasia e il suicidio assistito, come la Svizzera per esempio, la gente va su in Svizzera per farsi aiutare, non va per farsi uccidere. Senta, io sono stato al Teatro San Carlo di Napoli e ho sentito Jeffrey Tate, un grande direttore d'orchestra, l'ho visto salire troneggiante sul palchetto del direttore d'orchestra e aveva la spina bifida, era un uomo storto, peggio di Rigoletto, ed era bellissimo e ha eseguito splendidamente questa musica. In Olanda i bambini con la spina bifida vengono sottoposti per protocollo, ed è la cultura che sta dietro a quello che adesso sta accadendo anche nel caso di Eluana, per sentenza, per legge, per disposizione del signor legislatore, vengono sottoposti ad eutanasia. A me dispiace il fatto che non avremo più i Jeffrey Tate. Bello, scusi, tenere una mi dispiace. Che è tutta lì, tutta una vita. È bello curare le persone, non sopprimerle perché sono malate. Una persona che ha un difetto fisico o una malattia o qualsiasi cosa è denigrante, glielo garantisco io. Allora io dico soltanto una cosa: non dobbiamo, cioè noi dobbiamo così accettare e soprattutto rispettare la volontà di ognuno di noi. Non stiamo sopprimendo nessuno. E poi è stata detta un'inesattezza. No, non stiamo sopprimendo nessuno, scusi, questo non lo deve dire perché è menzogna. Scusi, lei stava dicendo stiamo sopprimendo una persona fosse... precisa. Mi scusi, lei prima con un ascoltatore aveva detto che se Eluana fosse stata alimentata o imboccata, specifichiamo bene, Eluana non può trangugiare nulla. Sì, vabbè, ma io l'avevo detto in linea ipotetica. Sì, ma io ho voluto solo Antonella Vian, esponente del Movimento per la Vita, stiamo in chiusura. Sì, buongiorno. L'appello al silenzio, al rispetto della libertà e della privacy. Ora ne abbiamo parlato per un'ora, tutti i giornali dicono silenzio, trovo la cosa veramente di un'ipocrisia bestiale, scritto a caratteri cubitali sulla prima pagina, cioè fanno del chiasso intorno al silenzio, impongono in modo chiassoso la linea del silenzio, che poi essi stessi non rispettano. Ma lei si sente dentro di sé un po' tormentata per il fatto che stiamo parlando da un'ora del destino di una persona che in fondo è una persona privata e insieme con la sua famiglia avrebbe diritto di decidere in piena libertà e autonomia? Certo, io sono contraria al silenzio perché Luana va aiutata, lei non può parlare, quindi scusate per la voce ma ce l'ho un po' bassa, normalmente non ce l'ho, questo sono rimasta un po' scioccata da questo trauma che ho subito nel vedere Luana andarsene via da Lecco. Io mi sto battendo, se battendo il termine giusto, parlando direttamente in privato col papà, che l'ho contattato a settembre, precisamente il 16 per telefono, e il 23 mi sono incontrata con lui, che è stata una persona, lo ribadisco, gentilissima, disponibilissima con me, tanto che mi ha voluto dare il suo bigliettino privato personale per rimanere in contatto con lui, chiedendogli di dargli del tu, fin da subito. E oggi dobbiamo chiudere. Oggi che cosa vuole dire al padre di Luana lei? Una cosa molto importante. Voglio con lui vedere al letto di Luana, se me lo permetterà, venendo a Udine, se non gli daranno i sedativi, se Luana veramente risponderà e vorrà ancora tenere la sua volontà a voler morire. Io voglio dimostrare questo, se è possibile, e vorrà ancora Dio questo, dimostrare se Luana veramente la sua volontà non si è cambiata, perché io ho avuto una possibilità, un sentore davanti al suo letto e col papà e la suora di questa cosa qui, che Luana ha cambiato la sua volontà. Però questo dobbiamo dimostrarlo insieme. Era una cosa che doveva essere privata. Grazie Antonella Vian, grazie a tutti voi, grazie naturalmente come al solito ai miei collaboratori, a Franca Fossati, a Gloria Guerrera, ma qui non mi hanno messo però tutti i loro nomi, Alessandro Chiappini e Giorgio Matteo. Grazie a tutti, va in onda adesso Mailog 2 di Gianluca Nicoletti, noi ci vediamo domani mattina, grazie. Radio 24, la passione si sente. Pubblicità straordinaria. I super geni Alloyd sono i più veloci a rimborsare automobilisti e motociclisti anche in caso di furto. Chiama o clicca su genialloyd.it per un super preventivo gratuito per la tua polizza. Avrai un super risparmio fino al 30%. Così semplice, così geni Alloyd. Salve, sono Anna e faccio la cassiera alla Coop. Volevo dirvi che Coop è sempre con voi e lo dimostra abbattendo i prezzi del 20% su oltre 100 prodotti Coop tutti i giorni. Allora vi aspetto all'uscita fino al 29 marzo. Coop, dalla tua parte, noi. Va bene, evidentemente le porte antincendio non sono il suo forte.